688. Crema alla francese. Eravamo nella stagione in cui i cefali delle valli di Comacchio sono ottimi in gratella, col succo di melagrana, e nella quale i variopinti e canori a ugelli, come direbbe un poeta, cacciati dai primi freddi, attraversano le nostre campagne in cerca di clima più mite. Ed innocenti quali sono, povere bestioline, si lasciano cogliere alle tante insidie e infilare nello spiede. Ed io sol uno m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. La guerra del cammino, percorrendo 200 chilometri, per andare a villeggiare da un amico sopra un colle amenissimo, e la pietate per quei graziosi animalini, perché sentivo una stretta al cuore ogni volta che dal casotto del paretaio li vedevo insaccarsi nelle maglie traditrici delle sue reti. Ma poi, non appartenendo io alla setta dei pitagorici e avendo la ferma convinzione che al male, quando non ha riparo, per amore o per forza, bisogna acconciarvisi e, se è possibile, trarne profitto, procurai di cattivarmi la benevolenza del cuoco insegnandoli a cucinar con più garbo che non faceva la cacciagione e di condirla e cuocerla in modo da renderla più grata al gusto ed egli, in contraccambio di ciò, e di qualche altro precetto di culinaria, fece in presenza mia questo e i seguenti due piatti dolci che vi descrivo. La cacciagione e la selvaggina in genere, semmai non lo sapeste, è un alimento aromatico, nutritivo e leggermente eccitante. So di un medico di bella fama, il cui cuoco ha ordine di preferirla a qualunque altra carne, quando la può trovare, e in quanto ai cefali vi dirò che quando io ero nella bella età in cui si digeriscono anche i chiodi, la serva ci portava questo pesce in tavola con un contorno di cipolle bianche tagliate in due, arrostite in gratella ed anch'esse condite con olio, sale, pepe e succo di melagrana. La mangia, ossia la stagione dei muggini delle valli di Comacchio, è dall'ottobre a tutto febbraio. A proposito di questo luogo di pesca, qui vi viene in acconcio di aggiungere, come cosa meravigliosa e degna sapersi, che la pesca nelle valli comacchiesi a tutto il primo novembre 1905 diede quell'anno i seguenti risultati: anguille chilogrammi 487.653, cefali chilogrammi 59.451, acquadelle chilogrammi 105.580. Dopo l'esordio, la predica, per dirvi come sia composta questa cosiddetta crema alla francese. Latte mezzo litro, zucchero grammi 150, uova uno intero e rossi numero 4, colla di pesce fogli numero 2, odore di vaniglia o di scorza di limone. Mescolate bene insieme lo zucchero con le uova, aggiungete il latte a poco per volta e per ultimo la colla in natura. Ponete la cazzaruola al fuoco, girando continuamente il mestolo sempre da una parte, e quando la crema comincia a condensare, attaccandosi al mestolo, levatela. Prendete uno stampo liscio col buco in mezzo, tale che la quantità della crema possa riempirlo, ungetelo col burro oppure col rosolio, in modo che ne resti in fondo un sottile strato, e versatela nel medesimo. D'estate ponete lo stampo nel ghiaccio e d'inverno nell'acqua fresca e sformatela sopra a un tovagliuolo ripiegato sul vassoio. Se non vi fidate troppo del latte, dategli una bollitura almeno di un quarto d'ora prima di far la crema, oppure aumentate un foglio di colla.